Wender e Fabio Alisei presentano Questo è Polaroid, istantanee di storia della musica. Ricorda il mio nome e imparerò a volare. Ricorda il mio nome e vivrò per sempre. Ricorda il mio nome. Mi chiamo Successo. Successo. Fama, la forza che solleva, modifica, uccide. Difficile da raggiungere, più difficile da trattenere. Gradino dopo gradino, come una scala a chiocciola senza ringhiera, si sale con fatica, si discende precipitando. La fama è una coppia di mani impresse nel cemento, sormontate da una stella dorata che eterna un nome. Mani che un tempo hanno fatto altro, nomi che un tempo non dicevano niente. Il crononauta riavvolge le vite, girando il nastro con la penna Bic. Torniamo alla base della gradinata, per conoscere nessuno prima di essere qualcuno. Anno dopo anno, canzone dopo canzone, debutto dopo debutto. In una raffica di scatti col flash. Mettetevi comodi, inizia Polaroid. Polaroid. Polaroid. Istantanee di storia della musica. '61, Contea del Kent. Nell'ala est del manicomio di Bedlam, Michael svuota pitali di piscio e merda nel pozzo di scarico. Manca meno di un'ora a fine turno e deve ancora spostare quelle casse di clozapina, la caramella buona per gli schizofrenici. Michael deve fare presto. Nel magazzino delle brande lo aspetta un'infermiera grassa, Janet, nuda, che vuole scopare con lui. Per Michael sarà la prima volta. Dopo quella ne arriveranno un milione, quando il suo nome diventerà Mick e la leggenda unirà Jagger. su Radio 105 c'è Polaroid. Voglio vederti danzare istantanee di storia della musica. Chicago. A Patricia piace costruire giocattoli. Le piace veder scorrere sul nastro trasportatore tutte quelle manine, quei piedini, quegli occhioni di plastica da incollare e pensare ai bambini che li fisseranno, immaginando mondi fantastici. Non le piacciono invece quelle stronze delle sue colleghe. Ieri l'hanno picchiata e poi le hanno ficcato la testa nel cesso. È la terza volta questo mese. Dicono che ha la faccia da lesbica e la voce da frocio. Ma con quella voce, un giorno, Patricia scriverà la storia del rock. Toglierà la tuta azzurra per diventare Patti Smith. Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I love is a banquet on which we feed. 105 c'è. Qui c'è, c'è, qui c'è, c'è, qui c'è. Polaroid, istantanee di storia della musica. Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bound, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. Birmingham. Nel mattatoio comunale John sta squartando il ventre di una vacca. Ha solo 16 anni, ma lavora sicuro e veloce come un chirurgo. Taglia col coltello, estrae l'interiora, separa il fegato, lo stomaco, il colon e l'intestino e li mette dentro vaschette di plastica grigia. La vista del sangue non gli fa alcun effetto, ma l'odore, quella mistura dolciastra di marcio e merda, quello sì che gli dà fastidio e gli rivolta lo stomaco. John trattiene un attimo il respiro e continua a tagliare, perché per ora lui è solo John Osborne. Ma un giorno finirà in carcere per aver rubato un televisore e il suo nome sarà Ozzy. Oh, they love.

105 c'è Polaroid. Istantanee di storia della musica. Roma, Cinecittà. Fiorella cade a terra, colpita al petto dal proiettile di un Winchester. Il suo corpo privo di vita rotola giù da una tettoia e cade al suolo sulla terra polverosa davanti al saloon. Stop! Buona! Fiorella si rialza e sorride. Non è morta, è una stuntman, come suo padre. E quello è il set di Una colta in mano al diavolo, spaghetti western. Nel futuro di quella ragazzina di 14 anni, però, non c'è il cinema, c'è la musica e una carriera da Fiorella Mannoia. We'll be right back. 1978, New York City. Louise ha combinato un casino. Dunque, era alla cassa del Dunkin' Donuts tra la quinta e la 55esima e il cliente voleva una ciambella con la glassa rosa. Quelle rose sono finite, gli dice lei, e quello attacca a urlare come se gli avessero fatto una ceretta ai peli del culo. Così Louise perde la pazienza, prende un tubo di crema rosa e gliela schizza in faccia. Licenziata. Fanculo. Adesso però sarà un casino trovare i soldi per la scuola di danza e Louise deve assolutamente imparare a ballare se un giorno vuole chiamarsi Madonna. Solo su Radio 105.